Buonasera a tutte e a tutti. Siamo qui al nostro appuntamento settimanale. Come sapete, questo appuntamento si ripeterà tutti i lunedì alle 21 e durerà circa mezz'ora. Un appuntamento che per me è diventato un dovere, un obbligo, visto come sta andando la situazione. Le cose da dire anche oggi sono tantissime. Vi informo che come sempre domani questo video sarà ancora disponibile sulle mie pagine Facebook, sulla pagina Facebook di 37.2, sulla pagina Facebook di Costituzione Beni Comuni dell'Associazione Ponti Memoria e tra breve anche sulla pagina di Medicina Democratica. Da venerdì mattina il video lo potrete vedere, fate girare la voce per chi non ha Facebook, anche sul mio sito www.vittorioagnoletto.it per chi non ha Facebook. Vi faccio anche questa sera l'invito a condividere il video perché darò tante informazioni, tante risposte che non sono in grado di dare a ciascuno. Anzi, mi scuso se qualcuno non avrà ricevuto una risposta alla mail che ha inviato, ma veramente non possiamo rispondere a tutti. Oggi ci saranno alcune novità, che per ora non sono ancora state discusse nel mainstream e quindi su alcune notizie daremo poi proprio un'anteprima. Cominciamo a parlare dell'epidemia, di come sta andando. La situazione in Italia in questo momento sembra essere in una fase di stabilizzazione. Si diffonde in modo forte, i livelli, i numeri rimangono alti, ma pare che sia diminuito il ritmo di crescita, non che sia diminuita la forza di diffusione del virus in quanto tale, ma che sia diminuita la capacità di raddoppiare quasi settimanalmente come era avvenuto fino ad ora. E questa è una notizia positiva, che però non va estremizzata. E qui dico subito quello che penso. C'è una pressione forte, fortissima, che parte ovviamente come al solito da centri, da poteri economici, da Confindustria, da Confcommercio e via dicendo, per dire che tutto si risolverà comunque in tempo per Natale. Ecco, sono molto chiaro, noi questo non lo possiamo ancora dire, non lo possiamo sapere. Io mi auguro che non ci sia una forzatura sui dati, soprattutto da parte di alcune regioni. Il fatto che la curva per ora si è stabilizzata lascia ancora aperte diverse ipotesi. C'è da dire che il virus si sta diffondendo più omogeneamente in diverse parti del paese. Sono arrivate, per esempio, delle segnalazioni preoccupanti, le voglio riportare qua, anche dalla Sardegna, dalla provincia di Nuoro, di cui nessuno assolutamente parla. Lo porto come esempio per dire che non possiamo centrare l'attenzione solo sulla Lombardia. Ma veniamo a quella che è una novità che per ora non è ancora diffusa. Per questo vi chiedo per favore di condividere e di far passare questa informazione. Allora, uno studio tedesco che è stato in particolare applicato alla realtà giapponese avrebbe dimostrato una cosa finora sconosciuta, e cioè che il coronavirus non si diffonde sempre con le stesse modalità, ossia che le persone positive non sono tutte ugualmente contagiose e che la maggioranza delle trasmissioni sembrano legate a un gruppo più limitato di persone colpite dal virus che potrebbero essere definiti super diffusori. Quindi c'è una potenza, una capacità di trasmissione che si modifica molto da persona a persona. Allora, che cosa dice questo studio? Che diventa fondamentale andare a individuare i cluster, cioè i punti dove il virus si diffonde velocemente. Mi spiego, quello che dovrebbe funzionare in Italia e che non funziona in Lombardia e in tante regioni è: quando c'è una persona positiva, andare a rincorrere tutti i contatti, fare tampone ai contatti, vedere che è positivo e da lì seguire i contatti e vi dicendo. E questo va fatto e questo è importante ed è in una direzione. Ma quello che ci dice questo studio tedesco è che sarebbe da fare anche una ricerca indietro, cioè c'è una persona positiva, andare a cercare di capire dove questa persona si è infettata, individuare le persone presenti in quell'ambito dove la persona si è infettata e cercare di capire da chi è stata infettata, perché probabilmente quello è un super diffusore, cioè come dire che all'interno di un gruppo, quando si infettano più persone, è probabile che queste persone siano state infettate dalla stessa persona che ha una potenza di trasmissione molto maggiore delle altre. Allora, se tornando indietro si riesce a capire l'origine di questa infezione, cioè l'origine della trasmissione, andando a isolare soprattutto i super diffusori, diventa più semplice limitare la potenza di diffusione del virus. Quindi, in sostanza, di fronte a una persona che è positiva, l'intervista che bisognerebbe fargli è nelle due direzioni: con chi è venuto in contatto e quindi chi può aver infettato, e tornare indietro e vedere chi l'ha infettato e in quale ambito, individuare le persone che erano dentro quell'ambito, e in questo modo si può risalire a chi è la persona che ha maggiormente una potenza di diffusione del virus. In Giappone, praticando questo schema, ovviamente con diverse risorse, diversi operatori, sono riusciti a contenere di molto la diffusione del virus. È uno studio importante perché appunto ci dice che non tutti sono in grado di trasmettere con la stessa forza e con la stessa potenza il virus. Se noi individuiamo i più potenti nella trasmissione, abbiamo fatto una cosa estremamente importante. E questa è una notizia nuova che mi sembra molto molto interessante. Proseguiamo con altre informazioni. Allora, finalmente, a distanza ormai di, diciamo, parecchi mesi, quasi 9 mesi dalla comparsa del virus, sono uscite delle linee guida per i medici di medicina generale, cioè per i medici di famiglia. Fino ad ora ogni medico di famiglia cercava di comportarsi nella modalità che a lui sembrava migliore e alcune volte c'erano anche comportamenti diversi. Allora, finalmente escono le linee di comportamento. Ma che cosa accade? Che queste linee di comportamento sono anche diverse fra di loro. Cioè, ad oggi non c'è una linea guida di comportamento unitaria a livello nazionale, c'è una linea guida elaborata dal reparto di malattie infettive del Sacco di Milano insieme all'Ordine dei Medici di Milano, ci sono delle linee guida organizzate in elaborate in Liguria e a giorni arriveranno anche delle linee guida elaborate a livello nazionale. Queste linee guida tolgono un po' di strumenti ai medici di famiglia, cioè in sostanza vi leggo il punto clou delle linee guida milanesi. Al momento nessun trattamento ha dimostrato un chiaro beneficio in pazienti in cui la severità imponga l'ospedalizzazione. Vi sono in ogni caso alcune terapie che sono controindicate, poiché non hanno dimostrato nessun tipo di efficacia. E qui c'è una svolta. Nel senso che queste linee guida sconsigliano l'utilizzo dell'lopinavir e del ritonavir, dell'antibiotico azitromicina, dell'antimicrobico e anche dell'idrossiclorochina. E questa sarà una decisione che porterà ovviamente altre polemiche. In sostanza, quello che viene consigliato è l'uso del desametasone o di un equivalente. Adesso dovremo vedere come reagiranno e come si comporteranno i medici di famiglia, perché in questo modo praticamente sarebbero privi di strumenti di terapia a casa, a domicilio, mentre si ribadisce l'importanza di mettere in condizioni i medici di famiglia di avere un saturimetro, di poter misurare quindi l'ossigenazione, di potersi procurare le bombole di ossigeno e quindi un intervento di prima urgenza. E poi c'è la vicenda dell'uso dell'eparina contro i trombi. Quindi adesso vedremo come verranno applicate e quali saranno le discussioni attorno a queste linee guida, ma perlomeno c'è un documento col quale confrontarsi e questa è una novità. Voi sapete che è importantissimo perché bisogna cercare di ridurre il più possibile l'accesso delle persone negli ospedali dove ormai i numeri sono quelli che tutti conoscete e quindi diventa difficile ricoverare una persona finché si riesce a curarla, però ripeto, queste linee guida molte speranze non danno sull'utilizzo dei farmaci. Andiamo avanti e affrontiamo un altro tema, e cioè come sta cambiando la percezione della malattia. Perché si dice che c'è meno preoccupazione, che tutto sommato siamo più tranquilli. Io cerco di spiegare quello che sta avvenendo e la differenza tra l'ondata che c'è stata a marzo-aprile e l'ondata che c'è adesso. L'ondata di marzo-aprile colpiva soprattutto le persone più fragili e gli anziani, ma soprattutto i tamponi venivano realizzati praticamente solo in tutta Italia, quasi sui sintomatici. Per cui il numero di decessi in relazione alle persone individuate come positive, quindi in percentuale, era decisamente maggiore. In più, l'infezione si era diffusa soprattutto all'interno di una generazione, per cui erano poche le persone che erano a conoscenza di persone decedute della loro generazione. In genere erano persone più anziane e via dicendo. Oggi noi abbiamo un fenomeno diverso. Il virus si diffonde attraverso diverse generazioni. Sono tante le persone che sono colpite dal virus, anche persone giovani. Per cui è assolutamente normale ormai conoscere tante persone che sono state infettate e che ce l'hanno fatta molte volte senza neanche andare in ospedale. Questo non significa che è il virus che è diventato meno aggressivo, ma che è diversa la popolazione che è stata colpita dal virus e che questa popolazione ha maggior capacità di reazione. Tutto questo regge finché regge il servizio sanitario, il sistema sanitario. È evidente che se queste persone poi sono abbandonate a se stesse e non regge il servizio sanitario, allora i problemi aumentano. Ma è vero che oggi molti di noi conoscono tantissime persone che sono state infettate, che ce l'hanno fatta, che sono guarite e che possono tornare nella vita, diciamo, normale per quello che si può nelle condizioni in cui siamo adesso, cioè la vita scolastica per i più piccoli o la vita del lavoro. Ma la ragione è dovuta alla diversa stratificazione in termini di età della popolazione colpita dal virus. È importante perché altrimenti si ritiene che il virus sia diventato meno aggressivo. Questo ad oggi non è dimostrato. Diciamo anche qualche parola sulla vicenda del vaccino. Come vedete, ogni giorno si succedono notizie. Adesso è un'altra azienda ancora, Moderna, che dice siamo a un passo dal vaccino. E se l'azienda di 3 giorni fa diceva abbiamo un'efficacia del 90%, adesso Moderna dice abbiamo un'efficacia del 94%. Se prima dicevano il nostro vaccino deve essere conservato a temperatura molto molto bassa, oggi Moderna dice noi siamo riusciti a elaborare un vaccino che può essere conservato per alcuni giorni anche a temperatura ambiente. Allora, il mio parere è che sicuramente dei progressi sul vaccino ci sono, ma che questi continui annunci e questa immagine di una gara tra un'azienda e l'altra giocata con annunci quotidiani hanno come obiettivo soprattutto i ritorni di tipo finanziario e in borsa. Per il vaccino ci vorrà ancora tempo e comunque sia chiaro, non sarà immediatamente disponibile per tutti. Questo è bene saperlo perché altrimenti vengono alimentate delle false speranze. La situazione non è in quei termini. Cambiamo argomento e diamo due notizie importanti. Allora, oggi più di 50, 52 associazioni, vi chiedo per favore di condividere questo video per dare questa informazione, più di 52 associazioni hanno inviato una lettera aperta al ministro Speranza, ministro della Sanità, al primo ministro Conte e per conoscenza al presidente della Repubblica, chiedendo a costoro di intervenire sulla sanità lombarda. Si ribadisce la necessità di un intervento centrale di commissariamento o perlomeno di sottrarre una serie di decisioni alla giunta regionale lombarda. La situazione è veramente disperata e il governo non può far finta di non aver ricevuto questo appello che oggi è stato rilanciato in forma pubblica. L'ultima notizia che è rimbalzata, che abbiamo sollevato proprio noi e che è rimbalzata sui media oggi pomeriggio è la vicenda legata al San Raffaele. Che cosa accade? Accade che i cittadini lombardi e milanesi sono a casa senza assistenza domiciliare, che le USCA, cioè le unità di assistenza domiciliare destinate ai malati di Covid, dovevano essere 200, sono meno di un terzo. I medici di medicina generale non hanno tutti gli strumenti e dispositivi di protezione individuale, le persone sono a casa da sole. A questo punto che cosa accade nel vuoto istituzionale? Che c'è un annuncio sul sito del San Raffaele che, attenzione, fornisce lui gli interventi di assistenza domiciliare e di cure territoriali, ma a prezzi altissimi. Per un consulto medico, cioè una telefonata con un medico che ascolta quello che hai da dire e ti dà dei consigli puramente telefonici, 90 euro. Il cosiddetto pacchetto Covid, che prevede gli esami ematochimici, che prevede un RX, costa 450 euro. Una cosa indecente e immorale. Ma è ancora più immorale non solo che un ente privato avanzi una simile proposta sul mercato, ma è ancora più immorale che nessuno in regione senta il dovere di intervenire, il dovere come minimo di calmierare i prezzi, di dire che c'è un prezzo sopra il quale non si può assolutamente andare, ma soprattutto che quello che si sta verificando è la conseguenza dell'assenza dell'intervento istituzionale e dell'intervento pubblico. E questo porta a una gravissima discriminazione sociale ed economica, perché chi può disporre di quei soldi può comprare il pacchetto Covid da San Raffaele. Chi non può disporre di quei soldi non gli rimane che stare a casa ed aspettare e eventualmente cercare di andare in ospedale con la situazione che conosciamo. C'è una responsabilità pesantissima da parte dei nostri amministratori, che addirittura a questo punto rende legittimo il pensare che ci sia un accordo tra gli amministratori e chi gestisce la sanità privata che sta facendo profitti enormi. È chiaro che non siamo in grado di dimostrare questo, ma è ovvio che qualunque ragionamento ci porta perlomeno a sollevare questo dubbio. È in questo quadro, quindi, che chiediamo ancora per una volta l'intervento dell'autorità nazionale rispetto a quello che accade in Lombardia. Ed è questo l'appello di 52 associazioni che hanno messo nella lettera pubblica rivolta a Speranza, a Conte e per conoscenza a Mattarella. Stiamo parlando di mobilitazioni ed iniziative. Io voglio ricordare a tutti che il 21 di novembre, e quindi stiamo parlando di sabato, questo in tutte le città italiane ci saranno delle iniziative organizzate dal coordinamento La Società della Cura, che raccoglie centinaia e centinaia di associazioni del terzo settore, di volontariato e anche organizzazioni attive sul piano politico. Si svolgeranno dove è possibile iniziative in presenza, dove non è possibile, dove ci sono le zone rosse, iniziative in webinar. Sul sito della Società della Cura potete trovare gli appuntamenti per tutte le città. Cosa si chiede? Primo, un reddito e aiuti per tutti, per coloro che oggi non possono andare a lavorare, non solo per coloro che hanno dei contratti fissi stabiliti, un reddito generalizzato perché c'è il problema delle partite IVA, c'è il problema di chi fa un lavoro non formale, che lavora in nero e che oggi si trova in una situazione disperante. Con l'obiettivo però di utilizzare questo intervento per far emergere il lavoro nero e quindi obbligare poi datore di lavoro, finita la pandemia, a quel punto ad assumerli. Quindi questa è una richiesta molto importante. Seconda richiesta, di attivare la sicurezza in tutti i luoghi di lavoro e di cura e quindi un immediato potenziamento delle strutture della medicina del lavoro all'interno delle ASL e delle ATS. Finanziamenti immediati per la sanità e soprattutto assunzione di medici. Parleremo nei prossimi giorni delle proteste dei giovani medici, dei neolaureati, di quelli iscritti alle specialità. Le specialità quest'anno non sono ancora partite. Ci sono migliaia di giovani medici che non stanno lavorando. Potrebbero essere benissimo coinvolti nella sanità pubblica, ovviamente sotto la guida di colleghi più esperti. Questo non è fatto e non ha assolutamente nessun senso. E poi, ovviamente, queste iniziative del 21 guardano anche oltre, cioè chiedono un piano di radicale conversione ecologica, sociale, economica e culturale per evitare di andare avanti con un modello di sviluppo che riproduca questa situazione. Ed è un appello che guarda in Italia, ma che non guarda solo e unicamente l'Italia, contemporaneamente iniziative in tantissimi paesi. Quindi parlo di sabato 21 novembre, cioè di sabato questo. Vediamo adesso le domande che sono arrivate. Allora, i telegiornali commentano, diminuiscono i contagi anche se la percentuale cresce. Stessa roba anche sui mezzi di comunicazione, anche se ci sono 500-600 morti. Come mai? Allora, ho già cercato di spiegare che la curva in questo momento è orizzontale o quasi, cioè non cresce più con la forza che cresceva nelle settimane scorse, ma siamo ben lontani da un'inversione, da un abbassamento della curva. C'è sicuramente una pressione economica per far sì che alla fine del lockdown si possa dire: la situazione drammatica è superata, si riapre tutto, tutto torna come prima per quello che riguarda il periodo natalizio, il commercio, gli acquisti e tutta l'economia che ci gira attorno. Non si tratta di essere indifferenti all'economia, si tratta di non mettere la salute in posizione subalterna all'economia. Quindi, sicuramente nella comunicazione e nei commenti sui dati c'è una forzatura di ottimismo che ha questo tipo di obiettivo. Si chiede dove troviamo il link all'appello delle 52 associazioni. Il link si trova per esempio sul sito di Medicina Democratica e da domani sarà anche sulle mie pagine Facebook. Come possiamo fare per appoggiare il commissariamento? L'appello è ancora disponibile e quindi si può andare a firmare. Lo riproporrò anche sulla mia pagina. Siamo ormai a 100.000 persone. Poi l'ufficio scolastico della Regione Lombardia ha comunicato alle scuole di sospendere l'invio dei dati aggiornati su assenza da contatto dovuti a tamponi positivi. Perché? Come verranno regolati gli accessi al vaccino? Quale categorie avranno la priorità? Allora, come sapete, all'interno delle scuole la situazione è cambiata e sta cambiando da un punto di vista formale. Prima la situazione era un bambino col tampone positivo, tutti a casa per 10 giorni, dopo 10 giorni tampone, se negativo si può tornare a scuola, se è positivo no. Adesso la situazione è diversa, Tampone positivo di un bambino, 14 giorni a casa. Se non ci sono sintomi, ovviamente, se non ci sono sintomi, dopo 14 giorni si può rientrare a scuola. A che cosa è dovuta questa scelta? Siamo sempre alle solite. All'ipotesi che dopo 14 giorni di asintomaticità si ipotizza che uno non sia stato infettato, ma soprattutto all'assoluta impossibilità e incapacità della struttura pubblica di controllare le persone attraverso i tamponi. Come sapete, la struttura regionale lombarda da questo punto di vista è totalmente crollata. Come verranno regolati gli accessi al vaccino? Quali categorie avranno le priorità? Allora, io immagino che le priorità saranno decise a livello nazionale, non dalla singola regione, e questa mi sembra una cosa saggia. Immagino che quando sarà disponibile il vaccino, la priorità sarà per il personale sanitario e poi a conseguire gli altri settori della popolazione, cominciando dalle persone con patologie croniche, dalle persone anziane, ovviamente, e poi via via a tutti gli altri. Credo che queste siano delle scelte assolutamente dovute. È vero che dopo 21 giorni da tampone positivo si può uscire di nuovo anche senza tampone di controllo. Allora, per favore, condividete il video perché questa è una domanda che arriva spessissimo. E la risposta è molto molto importante. Cosa è previsto fino ad oggi? Allora, che se una persona ha trascorso 21 giorni dal primo tampone risultato positivo e se dopo 21 giorni, in quei 21 giorni, nell'ultima settimana è rimasto asintomatico, quindi non ha avuto nessun sintomo, dopo 21 giorni può comunque tornare al lavoro anche qualora sia tutt'oggi positivo. Cioè si ritiene che a 21 giorni di distanza dalla positività del primo tampone e dopo almeno una settimana di asintomaticità, la positività sia dovuta non al virus intero, ma a frammenti virali non in grado di trasmettere l'infezione. Per cui, dopo 21 giorni e una settimana di asintomaticità, anche se uno risulta ancora positivo, può rientrare al lavoro. Ci sono delle evidenze scientifiche, come capita spesso quando si parla del coronavirus, non c'è l'assoluta certezza scientifica. Questa decisione, che è un misto tra ricerche scientifiche e considerazioni politiche e economiche sul mondo del lavoro, questa decisione ovviamente molte volte crea la reazione dei datori di lavoro e del medico del lavoro che non vogliono che una persona ancora positiva, anche se ha le caratteristiche che ho detto fino adesso, rientri al lavoro. Questo è un problema, perché il medico di famiglia non può prolungare ulteriormente la malattia, visto le regole che ci sono, se ha superato i 21 giorni e se l'ultima settimana è asintomatico, e quella persona rimane sospesa, non può stare in malattia e non può andare al lavoro e finisce per utilizzare le ferie per chi ce le ha. Quindi questa è una situazione molto molto complicata. Ma se mi chiedete cosa prevedono le regole prevedono esattamente questa situazione. E vi ho spiegato che è una sintesi, diciamo, di motivi sanitari e di motivi invece economici. E allora io vi do un'altra notizia. Come vi avevo accennato, sono andato a consegnare il mio libro ai magistrati di Milano, alla Procura di Milano. L'ho ritenuto una scelta doverosa, dovuta proprio anche a un dovere per chi come me è anni che si batte per la tutela della salute collettiva, perché nel libro vi sono all'interno segnalazioni e denunce, alcuni su fatti su cui la magistratura sta già indagando, e però il libro fornisce elementi ulteriori, altri su fatti sui quali la magistratura non sta ancora indagando. Di questi, due sono gli elementi fondamentali che che io vi vorrei ricordare e uno è diventato di grande attualità in questi ultimi giorni. E cioè, la domanda è semplicissima. Come mai, posto che ormai sappiamo che il virus girava da mesi, già dalla fine di novembre, e forse, secondo quello che dice l'Istituto dei Tumori di Milano, già da settembre, ma dato che sappiamo che a dicembre medici e ospedali avevano segnalato la presenza di polmoniti interstiziali che richiamavano il quadro clinico del Covid e avevano fatto le segnalazioni, la domanda è semplicissima. Come mai in regione nessuno si è attivato? Come mai il programma di sorveglianza sanitaria non è scattato e non si è andato quindi a verificare se quelle polmoniti erano già dovute da Covid? Gli strumenti li avevamo e oltretutto in quel momento a gennaio non c'era ancora la circolare che diceva che si poteva fare il tampone solo a chi era rientrato dalla Cina. Esce il 27 gennaio, quindi nel mese di gennaio si sarebbero potuti fare i tamponi, individuare se il virus circolava già e avremmo guadagnato un mese di tempo, che non è assolutamente poco. Allora, siccome i regolamenti prevedono questo, la domanda è: chi non ha attivato, non ha raccolto le segnalazioni che arrivavano dai medici di Codogno, dai medici di Bergamo e non si è dato da fare? Questo è il primo punto che ho sottolineato. E il secondo punto che ho sottolineato ai magistrati, insieme a tanti altri che ci sono nel libro, è come mai a un certo punto è arrivata l'indicazione ai servizi della medicina del lavoro di Milano di non andare a verificare quello che avveniva all'interno delle RSA. Come mai è stato portato via questo compito ed è stato affidato a un altro settore dell'ATS che l'ha realizzato quasi unicamente attraverso questionari? Ed è chiaro che se un direttore della RSA gli arriva un questionario in cui gli chiedono se va tutto bene, se rispetta le norme, è evidente che risponderà di sì. Allora, come mai quei servizi di medicina del lavoro sono stati spogliati dell'incarico che avevano? E quindi non sono andati all'interno dell'RSA a vedere e raccogliere le segnalazioni dei lavoratori? Anche qui si sono perse settimane estremamente importanti. E questi sono dei punti su cui io ritengo che i magistrati dovrebbero indagare. Un'ultima domanda, mi pare che ci sia. Si può prendere il nuovo virus, di nuovo il virus dopo essere stati infettati e guariti? Allora, non c'è una risposta definitiva su questo. Sono stati segnalati al mondo alcuni casi di persone che dopo essersi infettati, dopo essere guariti, dopo aver prodotto gli anticorpi, hanno avuto una curva significativa di diminuzione degli anticorpi e si sono infettati una seconda volta. Sono casi estremamente limitati. Secondo, una recente ricerca ha dimostrato che il tempo di permanenza degli anticorpi e soprattutto la quantità di anticorpi che permangono una volta che si è esaurita l'infezione dipende e varia molto da persona a persona. La ricerca sta cercando di comprendere da che cosa è dovuta questa variabilità interindividuale. Per ora non c'è ancora una risposta precisa. Mio marito con polmonite ricoverata, la ragazza di mio figlio positivo, figlio negativo, mai sentito il medico di base. Questo è un altro problema che abbiamo, e cioè che purtroppo alcuni colleghi, alcuni medici di famiglia oggi sono difficili da raggiungere. Io credo, lo dico per i colleghi, che abbiamo il dovere sempre e comunque di essere rintracciabili e di rispondere. Alcuni sono malati loro, altri si sono difesi in questo modo rispetto alla situazione in quale sono stati abbandonati, ma non credo che sia una soluzione accettabile. E poi mi chiedono un commento sulla situazione in Calabria, che cosa devo dire? È uno sfascio, un disastro assolutamente, mi pare che le nomine che ha fatto il governo siano altrettanto state un disastro, io non so se ci sarà poi una possibilità per Gino di strada di poter intervenire o fare qualcosa lui, non ho visto le notizie delle ultime ore, ecco, certo che quel quadro lì è un quadro veramente e assolutamente drammatico, che si è evidenziato meno in una prima fase perché in Calabria c'era meno la pressione, ovviamente, del virus rispetto a quella che abbiamo sperimentato qui al nord. Io mi fermo qui stasera, vi ringrazio per l'attenzione che mi avete dato, spero di essere riuscito a spiegare anche alcuni passaggi un po' complicati. E vi invito ancora a condividere e a far girare questo video. Grazie a tutte e a tutti, arrivederci lunedì prossimo.